Avvocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Stiamo cercando di capire che cosa succede, perché in realtà le squadre sono lì. Ha detto un sorriso a Petagna. Sai chi mancano? Gli arbitri. Loro ci sono, ma mancano proprio gli arbitri. Adesso bisogna andare a capire cosa sta succedendo. Ma in questo momento, lo vedete, Parma e Spal tornano all'interno dello spogliatoio. Adesso le comunicazioni che ci stanno arrivando è che la decisione è posticipata di 30 minuti. Quindi entro 30 minuti sappiamo se Parma-Spal si gioca, e se si gioca a questo punto, ripetiamo, la Serie A, perché non è una decisione legata esclusivamente a questa partita. Alle 12.25, con le squadre pronte per scendere in campo, manca la squadra degli arbitri con Pairetto, che arriva per ultimo e riferisce di aver ricevuto una telefonata attraverso la quale la comunicazione è stata: non si scende in campo. Ecco la novità: nel caso si dovesse giocare questa partita, calcio d'inizio 13.45. Dopo il colloquio fitto tra il ministro dello sport Spadafora e il presidente della federazione Gravina, è arrivata la decisione. Parma-Spal, primo incontro di Serie A di oggi, 13.45, il kick-off. Buon pomeriggio a tutti, 17.09, saluto subito per Luigi Pardo, ciao Pier. Ciao, come va? Bene, bene, poi ci raggiungerà più tardi in studio Carlo Genta, che sta rientrando verso la radio. Saluto già Dario Ricci da San Siro, ciao Dario. Ciao, ciao Giovanni, ciao a tutti. Allora, abbiamo sintetizzato il balletto surreale cui abbiamo assistito oggi tra le 12.10 e le 13.45 allo stadio Tardini di Parma. Giocatori che non vogliono giocare, ministro che nella notte firma il decreto insieme ai suoi colleghi, poi a mezzogiorno scrive alla Federcalcio per sospendere i campionati, nervosismo, trattative, sciopero proclamato dall'asso calciatori, poi la scelta di giocare. Ha detto dopo in un comunicato Tommasi, che sentiremo alle 18.30, si è giocato per responsabilità ma la Serie A va fermata. A Parma, per cronaca, ha vinto la Spal, poi si è giocato a San Siro, Milan-Genoa, Marassi, Sampdoria-Verona. Alle 18 si giocherà, quindi tra meno di un'ora, Udinese-Fiorentina. Alle 20.45 si giocherà Juventus-Inter, domani forse Sassuolo-Brescia. Martedì potrebbe fermarsi tutto, è stato convocato un consiglio straordinario della Federcalcio. Allora, 800 24 00 24, siamo in diretta, telefoni aperti fino alle 19, voglio sapere che cosa ne pensate. 349 238 6666, sms e whatsapp. Io penso che questa mattina milioni di italiani, almeno 16 milioni, si sono svegliati con diritti e doveri e con la prescrizione messa nero su bianco dal governo in un decreto di che cosa si doveva fare, di che cosa non si doveva o non si poteva fare. E io credo che i calciatori siano lavoratori come tutti gli altri. Noi siamo qui, Gianmarco Ferronato è dietro al vetro, Edoardo Lavezzari è nella sua solita postazione di autore, c'è tutta la redazione che dalle 19, lo avete sentito, dedicherà un lungo speciale all'emergenza coronavirus. Domani mattina andremo in ufficio, andremo in banca, nemmeno da citare gli operatori della sanità. Io insomma ho trovato un balletto abbastanza surreale, uno sciopero proclamato così 10 minuti prima del via delle partite. Pier, adesso vengo da te, vado prima da San Siro perché so che Dario Ricci è un ospite, poi dopo ragioniamo anche di che cosa ci ha fatto vedere poco oggi il Milan. Dario. Sì, eccoci qua da San Siro, siamo proprio in tribuna stampa. Vi descrivo un attimo la situazione: allenamento defaticante per i giocatori del Milan che non sono entrati in campo, scenario surreale, lunare. Basti pensare che nella mia fila ci sono abitualmente 21 postazioni, oggi eravamo in tre. Queste tanto per sintetizzare alcune delle misure anticontagio cui ci siamo ben volentieri prestati. Qui a fianco a me i colleghi che ringrazio, fra qualche minuto arriverà Stefano Scacchi della Stampa, intanto Monica Colombo del Corriere della Sera. Monica, ti chiedo subito un commento su questo balletto, come l'ha definito ben da studio Giovanni, che ci ha accompagnato in modo grottesco riferisco a questo calcio, di inizio alle 12.30. Un'ipotesi che veramente sembrava concreta, quella di non giocare. Qual è la tua prima valutazione? Intanto io saluto Monica Colombo. Preciso che sentirete una differenza di qualità di collegamento, e questo non perché ci siano problemi tecnici, ma perché Dario Ricci è lì con Monica Colombo, ma nel rispetto delle prescrizioni per il contenimento del coronavirus e dunque per l'obbligo di mantenere almeno un metro di distanza dall'interlocutore senza condividere microfono, auricolare o altri strumenti di trasmissione. Chiaramente Monica Colombo è al telefono con noi, pur essendo di fatto a, spero, almeno un metro da Dario Ricci. Vai Monica. Esatto, ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Ma io sottoscrivo un po' quello che è stato il pensiero di Tommaso Giulini, che oggi pomeriggio ha twittato a proposito del ministro Spadafora, che un po' alla ricerca di populismo prima ha chiesto la trasmissione delle partite in chiaro e poi 10 ore dopo aver firmato un decreto che prevedeva la disputa delle gare a porte chiuse ha chiesto che non si giocasse, nel senso idee poche confuse, ma proprio da parte di chi ci governa e dovrebbe fornire delle idee chiare, certe e valide per tutti. Dopodiché ha ragione probabilmente Damiano Tommasi a dire che non si sarebbe dovuto giocare, invocare lo sciopero, ma forse con qualche ora di anticipo rispetto a quello che era l'orario programmato per le varie partite. In ogni caso, se il decreto così prevede, firmato alle 2:30 del mattino, cioè la disputa delle partite a porte chiuse, almeno per questa giornata di campionato atteniamoci e poi vediamo quello che succederà nel Consiglio federale di martedì, considerando pure che ad esempio anche in altre serie, ovvero in Lega Pro, il presidente del Novara è risultato positivo, quindi mi sembra un problema non solo limitato alla Serie A ovviamente, ma, sì, ma a tutte le qualunque, leghe. A qualunque ordine grado. Pier, il tuo pensiero? Ma io sono molto perplesso, molto confuso, credo che sicuramente ci sia un discorso di clima e di voglia e di motivazione e di attenzione medica. Credo anche però che l'idea di giocare oggi nasca dalla voglia di provare a capire se l'ambito di queste misure iper restrittive che sono state varate in nottata si riesce nei prossimi giorni a ricostruire un minimo di normalità. Cioè noi dobbiamo provare a pensare in positivo, dobbiamo provare a pensare che nei prossimi giorni, anche grazie a degli atteggiamenti di attenzione da parte di tutti i cittadini, le distanze, il cercare di evitare di uscire se non è proprio indispensabile, insomma fare tutto quello che è possibile, non andare al pronto soccorso se ti senti male ma telefonare, sì, tutto quello che c'è stato prescritto, tutte queste cose che in maniera un po' noiosa provo a ricordare, la situazione possa incanalarsi in un binario di complessa normalità, passami questa espressione, e quindi provare. E allora in questo tipo di clima il calcio può diventare uno strumento, perché sicuramente per cercare di ritrovare un minimo di normalità o di buon umore il calcio ha un ruolo, e poi comunque le competizioni europee si giocano, quindi non è che la Juve, l'Atalanta, la Roma, l'Inter possono pensare vanno in vacanza, no? Almeno ad oggi, quindi oggi era veramente l'ultimo slot, se non si fosse giocato oggi saltava tutto il campionato, saltava tutto. Adesso c'è qualche giorno per ragionare a bocce ferme. Io vi leggo, se volete, il comunicato della Lega che è appena arrivato. Lega che fa una lunga ricostruzione sostenendo, ed è il suo punto di vista anche nella vicenda dei diritti TV in chiaro, durissimo l'attacco del ministro Spadafora a Sky e alla stessa Lega per il fatto che non si vedranno le partite in chiaro. Sostiene la Lega che si è attenuta in ogni passaggio di questa emergenza alle indicazioni arrivate dal governo, e chiude: le reiterate contrastanti dichiarazioni governative contribuiscono soltanto ad accrescere lo stato di confusione generale, sicuramente non aiutano il sistema a superare il momento di difficoltà generato dal virus. Ho l'impressione che siamo in mezzo, oltre che a un'emergenza, anche a una guerra che ci trascineremo nei prossimi giorni. 800 24 00 24, io voglio sapere che cosa ne pensate. In tanti ci state scrivendo via WhatsApp che il calcio va chiuso, si può fare tutto, ripeto, però io ho trovato un po' surreale il balletto dello sciopero proclamato chiamato così. Cioè, secondo me c'è un tema vero. Aspetta che devo andare a San Siro, Pier, perché poi dobbiamo Monica, liberare Monica Colombo che sta lavorando. Monica, parliamo e Dario, se possiamo parlare del poco che ci ha fatto vedere il Milan oggi. Diciamo che se Milan-Genova era un test per capire la tenuta dello spogliatoio alle questioni societarie, credo che il verdetto sia stato chiarissimo, no? Eh sì, direi proprio di sì, si è visto veramente poco, soprattutto tanta confusione da parte di questo Milan, che tra l'altro ha prodotto anche poco nel secondo tempo. Sul mio taccuino c'è segnato solamente il gol di Ibrahimovic, è arrivato in mischia, confusionari Hernandez e Rebic, no Monica, veramente un Milan che oltre a questa atmosfera assolutamente straniante e lunare ha pagato evidentemente anche le tensioni che hanno poi portato 48 ore fa all'allontanamento ufficiale di Boban. Sì, infatti colpisce che i due giocatori che nel nuovo anno erano stati i migliori di questo Milan, e mi riferisco a Teo Hernandez e a Rebic, oggi sono apparsi i peggiori in uno stato di confusione assoluto. È indubbio che il Milan, oltre al fatto di giocare comunque in un contesto unico, particolare, surreale, con il vuoto sugli spalti e questo silenzio irreale, non può non essere stato frastornato dal terremoto societario delle ultime ore. Tra l'altro in tribuna oggi c'era soltanto la di Ivan Gazidis, e quindi fa rumore anche l'assenza di Maldini e di Massara. Ufficialmente il club fa sapere per questioni di accessi ristretti, dopodiché insomma in uno stadio che contiene 80.000 spettatori, magari anche stando seduti a distanza ci sarebbe stato spazio anche per entrambi. Comunque è indubbio che la squadra un po' già giovane, inesperta, insomma con tutti i limiti che in mille occasioni abbiamo già sottolineato, stia pagando anche queste guerre interne. Ma il divorzio con Maldini è scritto? E se è scritto, Monica, arriverà a fine stagione, prima? Ma so che la società ha intenzione di tenerlo, perché comunque gli vuole affidare il ruolo di traghettare il club fino a fine campionato. Di certo Maldini è stato depotenziato, perché comunque delle deleghe nel frattempo gli sono state tolte, quindi l'addio a fine stagione è scritto. Io credo che Maldini non abbia intenzione di dimettersi nel frattempo, anche se forse è la decisione che invece si aspettava il fondo, e di conseguenza in questa situazione di caos calmo i giorni stanno passando. Vediamo cosa succederà nella prossima settimana. La sensazione è che Paolo comunque resti fino alla fine del campionato. Grazie Monica. A voi, buon pomeriggio. Grazie Monica Colombo. Mi tengo ovviamente ancora Dario Ricci in attesa del prossimo ospite. 800 24 00 24. Adesso cominciamo anche a passare gli ascoltatori per farmi raccontare un po' la giornata di chi oggi, pochissimi, è entrato a San Siro. Dario. Ah, eccomi, scusa che stavo salutando Monica Colombo. Beh, oggi giornata davvero grottesca, come abbiamo detto. Abbiamo provato anche a documentarla con qualche video. Silenzio assoluto, a parte qualcuno che pure tra i pochi che hanno avuto accesso ha lanciato anche qualche coro, che è suonato ancora più grottesco, perché quello che abbiamo visto oggi, a parte la qualità non eccelsa dello spettacolo sul prato, davvero è quanto di più lontano dal calcio. Anche devo dire, ecco, straniante anche la voce dello speaker. Evidentemente le formazioni non c'era, diciamo, la voce ufficiale del Milan, che le formazioni sono state lette veramente da una persona che non conosco, ma che è sembrato veramente di passaggio, e ha letto veramente anche i nomi in modo, tutto è sembrato lontano dal calcio che amiamo, e veramente esco da San Siro e con la domanda se è veramente questo lo spettacolo che ci serve. Sono più vicino alle posizioni di LeBron James oggi, Giovanni, se cioè posso che non si gioca senza pubblico. Aspettate, perché credo ci sia un problema di collegamento con San Siro. Allora facciamo così, c'è il traffico, chiedo scusa per il ritardo, poi quando torniamo a San Siro e ampliamo ancora il dibattito sul fatto che il calcio si sarebbe dovuto fermare o meno. 800 24 00 24. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci. 800 24 00 24. 800 24 00 24. tutti convocati. Tutti convocati. Aspettiamo anche la voce di Stefano Pioli da San Siro e torniamo. Io non so, Pier, se hai visto il Milan, qual è l'impressione che ti ha dato? Ho intravisto il Milan, mi ha fatto una pessima impressione, ma allora, la sensazione, ovviamente è un exit poll che possiamo ricavare da queste prime partite a porte chiuse, è che è stata decisiva la motivazione. Hanno vinto le tre squadre che avevano più bisogno di fare punti. E può succedere, non è ancora statisticamente rilevante. In questi giorni il concetto di statistica spesso torna per questioni ben più importanti dell'andamento del campionato. Quindi, però 3 non è un numero sufficiente per poter ricavare un valore statistico, però hanno vinto le tre squadre che avevano più bisogno di questa vittoria. La verità è che, ripeto, è un fatto di clima e di voglia, cioè non lo so. Sì, la verità è anche che proiettandoci su stasera c'è da capire chi avrà più motivazioni. Se posso essere sincero, in questo momento non me ne può fregare di più. Con questo tipo, lo dico, faccio outing, con questo tipo di situazione, con questo tipo di umore. Poi mi auguro che le cose si normalizzino e non lo posso escludere, e sicuramente dobbiamo fare le cose che ci chiedono gli scienziati, e magari da qui a 2-3 settimane troveremo una specie di normalità ancora precaria, ancora ansiosa, eccetera. Oggi di che parliamo? Stasera c'è No, oggi però parliamo di calcio, perché qua siamo, perché insomma facciamo parte delle categorie che cui è stato prescritto di andare a lavorare, e quindi io credo che il ritorno o il mantenimento di un minimo di normalità passi anche da questo. C'è Pioli, i microfoni di Sky. Pioli. Perché purtroppo abbiamo sbagliato. E quindi il caos societario, porte aperte. A Milanello abbiamo lavorato bene. E quindi non dobbiamo avere. Non abbiamo alibi, non abbiamo giustificazioni, dobbiamo fare meglio senz'altro. Sì, non cerchiamo alibi. Ecco, questo era Pioli che non cerca alibi. Andiamo di nuovo a San Siro dal nostro Dario Ricci. Dario. Eccoci qua, ci siamo ritrovati con al mio fianco, sempre a distanza di sicurezza, come giusto che sia, Stefano Scacchi della Stampa. Stefano, abbiamo descritto questo San Siro lunare, stiamo uscendo, ecco qua Giovanni, ci stiamo avvicinando al piazzale Moratti e siamo veramente con una quindicina di operatori, e devo dire, Stefano, la prima immagine che ci rimane negli occhi è anche gli operatori sanitari, perché non tutti forse lo danno per scontato, ma anche organizzare una sfida di questo tipo a porte chiuse comporta l'impegno di, vedo qua ad occhio, 2 ambulanze e almeno una decina di operatori sanitari, che davvero mi viene da dire abbiamo strappato forse una missione più importante oggi. Sì, sicuramente, buon pomeriggio a tutti. Ciao, tutto Stefano. Rientra in questa situazione assolutamente particolare, i dispenser, la mucchina, i termoscanner. E devo dire che, ecco, poi è giusto parlare di calcio, come diceva Giovanni, però secondo me anche quello che ha detto Pier prima, estremizzando, oggi non me ne frega niente, tutto sommato è una posizione che forse è condivisibile, e secondo me anche la differenza tra quello che è successo 8 giorni fa, quando ci fu il rinvio delle partite inizialmente collocate a porte chiuse, oggi dà la misura di come anche la nostro pensiero, le nostre riflessioni siano cambiate, perché tutto sommato 8 giorni fa avevamo la forza di polemizzare, c'era chi diceva era giusto giocarla, chi diceva no, è sbagliato cambiare a distanza di 40 ore. Francamente oggi era giusto fermare il campionato, non era giusto fermarlo, forse non abbiamo neanche più tanto la forza di polemizzare, perché tutti ci siamo resi conto 8 giorni dopo che siamo davvero in una situazione di emergenza. E quindi anche quello che diceva prima Dario, in effetti vedere delle persone, comunque del personale sanitario qua per una partita di calcio, quando vedi un po' stona. Sicuramente stona. Anche se, ripeto, noi tutti ci atteniamo a chi ci ha detto cosa si fa e cosa non si fa. C'è dubbio. E ci ha detto che si fa, che a porte chiuse si gioca a calcio. Questo è il punto di partenza. Fatemi chiedere a Stefano Scacchi invece se per tornare al calcio giocato, se anche il Milan va considerato in emergenza, nel senso che se il finale di stagione, ammesso che ci sia, e il modo in cui si disputerà, insomma, è questo, dopo il terremoto societario, è abbastanza difficile immaginare anche la possibilità di poter inseguire quel traguardo che ad esempio potrebbe servire a Pioli per provare a giocarsi una riconferma. Ma io credo, a prescindere che Pioli la riconferma probabilmente non ce l'avrà, nel senso che poi le voci su Ragni sono molto fondate, d'altronde se Boban se n'è andato è perché Ragni non è una trattativa ma è qualcosa di estremamente reale. Per il resto il Milan vive oramai una situazione davvero impossibile, difficilmente credo che un club abbia vissuto una situazione simile, i continui cambi societari, e la cosa più particolare è che oramai è come se ci fosse una sorta di manuale Cencelli applicato al calcio, no? Nel Milan, perché ogni direttore sportivo porta, ogni dirigenza porta tot giocatori. La dirigenza successiva non ha portato quei giocatori, quindi è come se fosse più vicino ai giocatori che ha portato. Anche i giudizi tecnici variano oramai di dirigenza in dirigenza, per cui il Milan è come se fosse una somma di lottizzazione calcistica, e per cui non i dirigenti tollerano meno i giocatori portati dalla dirigenza precedente. Quindi è proprio una situazione difficilmente leggibile, se non finalmente se non si introdurrà una certa stabilità, per cui fai almeno 3 sessioni di mercato con la stessa dirigenza. E l'ultima notazione, che prima dicevate delle motivazioni, secondo me è un'osservazione giustissima, perché ha vinto la squadra qua, la squadra con i giocatori che urlavano di più, proprio i decibel dei giocatori del Genoa erano superiori ai decibel dei giocatori del Milan. L'unica cosa positiva è che oggi nel deserto potevano sentire l'urlo dei giocatori, quindi capire certi umori. I giocatori del Genoa urlavano nettamente più di quelli del Milan e infatti hanno vinto loro, avevano più motivazioni da dare. Sì, oggi abbiamo ascoltato anche via TV da Marassi il VAR, con il Valeri, che diceva: io non vedo niente, non ho visto niente, ma ne parliamo dopo nella seconda ora con Luca Marelli. Allora, saluto Stefano Scacchi, La Stampa, che ringrazio, ciao Stefano. Grazie a voi. Saluto anche Dario Ricci, che torna in redazione, ciao Dario, grazie. A tra poco, grazie a voi. A tra pochissimo Matteo da Milano, Matteo. Ciao, buonasera a tutti. Vai. Ma io vi sto ascoltando e state descrivendo una situazione veramente anormale di queste partite a porte chiuse, con appunto silenzio, mascherine, dispenser, eccetera. E proprio per questo io sono a favore del fatto che si giochi, per provare a portare un po' di normalità, che sappiamo benissimo che non sarà la vera normalità, ma magari ci distraiamo per 2 ore. Quello che secondo me tutti noi stiamo passando è un bombardamento mediatico, per carità, più che legittimo, però abbiamo bisogno anche 2 ore secondo me proprio di distrarci. E chiudo, come diceva Pierluigi, l'Europa intanto continua a giocare e non è che possiamo, come dire, bloccare, chiudere squadre come Atalanta, tentativo, Napoli, guarda, secondo me è un tentativo, poi la vera partita di queste ore la giocheremo con i nostri comportamenti, con la nostra capacità di non farci prendere dal panico, di non scappare dalle zone ovviamente dello Stato, che dovrà riuscire a razionalizzare quello che mi pare sia il punto fondamentale, cioè le terapie intensive, perché ci sono alcune regioni in cui si concentrano, e nel riuscire a contenere il virus. Questa è la partita. Oggi, francamente, ti ripeto, io non ho nessuna, proprio, lo so che non, forse non è professionale, non ho nessuna motivazione. Non ho nessuna motivazione su Udinese Fiorentina, non ho nessuna motivazione su Juve Inter, che pure è una simpissima partita, no? Oggi non ce l'ho perché arriviamo in una condizione psicologica di un certo tipo. Se da qui a una settimana riusciremo, con i comportamenti quotidiani delle persone, ovviamente con lo Stato che riuscirà a fare la sua parte, me lo auguro, a ricostruire pur nell'emergenza una sorta di normalità, per cui cominceremo a vedere dei risultati, cominceremo a vedere che si può uscire da questa roba, allora magari fra una settimana ce la godiamo pure. E sono d'accordo con l'ascoltatore, il calcio ha un ruolo. Io mi sento in colpa oggi per essere demotivato delle questioni calcistiche, perché mi piacerebbe, da un certo punto di vista, che si discutesse di Juve Inter con le rivalità, perché questo fa parte della vita e fa parte anche dello svago e dell'evasione. Ha ragione l'ascoltatore, siamo bombardati da informazioni continue sul coronavirus che ci mettono il panico e ci fanno sentire anni, pure se non ce l'abbiamo in certi casi, perché l'ipocondria è dentro di noi in qualche caso, no? Quindi voglio dire, è esattamente così, il calcio ha un ruolo e da questo punto di vista i calciatori, ma anche i giornalisti, tutti abbiamo un ruolo. Però oggi c'è chi se la sente e chi non se la sente. Speriamo che questa cosa cosa oggi veramente innaturale di questa giornata di campionato, se le cose si mettono un pochino meglio dal punto di vista paese, tra una settimana sì, c'è chi ti scrive in tempo reale, guarda che non basterà una settimana neanche per cominciare a vedere, però questo noi lo racconteremo, non è questo il posto, non è questo il momento. Intanto vi dico che in Romania sono stati chiusi gli stadi di calcio e in Germania oggi si è giocato a porte aperte, c'erano ad esempio 65.000 spettatori per Bayern Monaco Augusta, ma il ministro della salute Spahn ha raccomandato di cancellare gli eventi con più di 1.000 partecipanti, perché poi nell'emergenza non siamo soltanto noi, magari ci siamo arrivati solo un po' prima degli altri. Ci fermiamo un minuto, torniamo e continuiamo a parlare di quello che è successo oggi e succederà nei prossimi giorni nel calcio italiano. Subito dopo l'intervallo la lotta continua. Tutti convocati. Tra le pieghe di quello che sta succedendo in questa domenica di calcio e soprattutto di dibattito sull'emergenza coronavirus, c'è anche la vicenda delle partite in chiaro che non ci saranno, non ci sono state questo pomeriggio, non ci saranno nemmeno questa sera, e che sono state oggetto di una parte dello scontro durissimo e dell'attacco del ministro Spadafora al mondo del calcio e ai club. Allora io intanto saluto Antonio Di Pollina, collega di Repubblica che si occupa di vicende televisive legate al calcio. Antonio, ciao, buon pomeriggio. Ciao, eccoci. Allora, faccio rapida sintesi. Io, nella lettera inviata a mezzogiorno da Spadafora, quella in cui si chiedeva di bloccare tutto e mezz'ora dopo era in programma Parma-Spal, il ministro è anche tornato sulla questione delle partite in chiaro e ha attaccato la Lega di Serie A e Sky, che si erano, ha scritto il ministro, rifiutate di concedere a migliaia di italiani costretti a restare a casa di poter vedere le partite in chiaro per privilegiare interessi economici. E poi la risposta di Sky, che ha accusato il ministro di dichiarazioni non corrispondenti alla verità dei fatti, ricordando che ci sono le regole, le leggi, c'era la disponibilità, ma le norme non sono state superate e forse non erano superabili. La controreplica del ministro: dopo attenta valutazione e numerosi colloqui ho reso noto ai soggetti interessati che l'unica possibilità per riuscire a trasmettere in chiaro le partite era trovare una soluzione cui, dice Spadafora, eravamo vicini nella giornata di ieri anche con l'aiuto di Rai e Mediaset. Ci aiuti a capire alla fine chi non le ha volute, chi ha ragione e chi ha torto, Antonio? Secondo me è l'intero sistema che alla fine non preferisce assolutamente glissare e rimandare qualunque ipotesi di partite di Serie A in chiaro. Mi è già capitato di dirlo a una vostra precedente trasmissione. Io resto convinto che il precedente, appunto, di un Juve-Inter, tanto per essere chiari, di stasera in chiaro, che fa il 30-40%, così fa sballare un po' le menti tutti i ragionamenti su cui si fonda attualmente l'esistenza del gioco del calcio in Italia, cioè che deve essere sovvenzionato dalle TV. Secondo me dal giorno dopo si comincerebbe a dire, ma avete visto il 40%, allora perché non lo si fa di più, come peraltro c'era una corrente di pensiero simile che si stava diffondendo nei mesi scorsi indipendentemente da tutto questo, cioè l'idea di mandare anche in chiaro il calcio di Serie A, come del resto capita anche con una partita della Champions League, per intenderci. Beh, esattamente, dopodiché la Champions League è governata in quel modo e l'UEFA ha deciso di suo che andare in chiaro con una partita compensa dal punto di vista dell'immagine, della pubblicità e di tutto quanto di quello che si incassa e della popolarità dello sport, gli eventuali mancati guadagni che derivano dal fatto che quella partita non vada solo in pay TV. È un calcolo logico. Magari prima o poi ci si arriverà davvero anche a fare qualcosa del genere nella Serie A. Insisto, se ne parla da un po' di tempo, un po' sotto traccia, ma se ne stava parlando. Ma questa è un'altra situazione, cioè nel momento in cui Spadafora, che è l'autore anche poi della cosa di stamattina, che io ancora devo ancora cercare di capire cosa diavolo è successo davvero, nel momento in cui su DAZN è comparso quel pallone in primo piano a un minuto dall'inizio della partita e non si giocava, cioè non si possono fare ragionamenti forti, non si possono fare ragionamenti logici in questa situazione. Da qualunque parte la guardi, c'è chi ha torto e c'è chi magari ha avuto anche abbastanza ragione nel chiederlo, però insisto, è il sistema stesso complessivo che in questo momento, a sentir parlare di partite in chiaro e per di più alla fine, temo che bisognerà arrivare a dire che si tratta forse delle ultime partite di questo campionato, che magari verrà fermato, ecco, diventa tutto maledettamente complicato. Sì, ma anche insensato, cioè qual è il motivo? Poi io credo che venga fatto dire diamo le partite in chiaro, così non si va nei bar. I bar in teoria dovrebbero già essere abbastanza chiusi di loro. Ragioni e torti si interpretano in un bailame in cui siamo tutti preoccupati. Beh, anche è evidente, Antonio, voglio sapere cosa ne pensa anche per Luigi Pardo, che io immagino Juventus Inter questa sera su Sky possa fare 2,5-3 milioni di ascolti. Questi sono grosso modo i top che fanno su Sky. Se ci sono come minimo altri 5-6 milioni di tifosi interessati, magari non dico il bar, ma c'è il rischio, insomma, che comunque qualche forma di aggregazione ci sia. Inter stasera farebbe, a ragione di Bolli, farebbe il 35% in chiaro, questo è indiscutibile. Poi non è che tutte le partite del campionato farebbero il 35% in chiaro. Cioè, il ragionamento sul fatto che la Pay TV in questi anni ha finanziato il calcio italiano è, secondo me, indiscutibile. Non credo che ci siano alternative da questo punto di vista, anche se mi piacerebbe. Tra l'altro io lavoro sia per la TV in chiaro che per la TV Pay, quindi non ho proprio preferenze da questo punto di vista. Figurati, mi piacerebbe moltissimo. Dal punto di vista del servizio pubblico è chiaro che sarebbe bello, perché credo che in questo momento al di là dei pub, ma anche banalmente ridurre il numero di persone che si incontreranno stasera in una casa per andarsi a vedere la partita. E potersela vedere ognuno, magari sarebbe uno strumento che magari darebbe una mano alla lotta al contagio, che in questo momento è la priorità per tutti. Ripeto, a costo di essere l'inguaribile ottimista, oggi siamo terrorizzati, ma dobbiamo provare a immaginare uno scenario da qui a qualche giorno in cui la situazione rimane di emergenza, rimane complicata, ma nella quale, grazie alle manovre che sono messe in atto in queste ore, pian piano si comincia a recuperare una normalità nel numero dei casi. Il calcio, da questo punto di vista, ha un ruolo fondamentale. Però la domanda che si fanno... Oggi lo vediamo, tra 10 giorni questa cosa potrebbe succedere. Dobbiamo augurarci che tra 10 giorni ci possa essere un clima lievemente più sereno. Sì, noi ce l'auguriamo, Pier. La voglia di vedere una partita di poi vediamo che cosa succederà. Poi ci sono tanti, Pier, io te lo garantisco, così insomma... Sono tanti che ci scrivono che hanno voglia questa sera di vedere Juventus Inter e si divertiranno anche se lo possono fare in due in casa, perché poi le sensibilità sono differenti. Sì, ognuno ha il suo approccio. No, fammi chiedere a Antonio Di Pollina invece, che poi ringrazio e saluto. Però la gente si chiede se davvero non esisteva la possibilità, ad esempio, di mettere per iscritto qualcosa in un decreto, visto che di decreti stiamo giustamente riempendo le nostre giornate e ciò che possiamo e non possiamo fare per superare qualunque tipo di obiezione dal punto di vista contrattuale, legale, che poi è un po' il tema che portano la Lega, i club, quindi e Sky. Posso dirti che a me fa un po' impressione che in decreti in cui si decide che si chiude una regione, che bisogna mandare forse l'esercito a presidiare i caselli dell'autostrada, una cosa che riguardi la trasmissione del calcio in chiaro, a me sembra, come dire, un po' periferica come discorso, ma probabilmente sto anche un po' improvvisando anch'io ragionamenti sul tamburo di questa situazione assolutamente, ripeto, molto complicata. Faccio però notare che, per esempio, si sarebbero innescate altre cose, perché appena sembrava che si potesse andare in chiaro, allora, chi è che la dà in chiaro? Allora, Sky dice ok, TV8 salta sulla Rai e dice no, ma noi siamo la Rai e ci vedono tutti dappertutto. A quel punto interviene Mediaset e dice: questa è una discriminazione, dobbiamo darlo anche noi. Cioè, ragazzi, sì, è difficile, è difficile trovare il colpevole di questa vicenda. Assolutamente, è un casino pazzesco dentro un casino molto più importante. Però posso, che stiamo posso dire vivendo una cosa? Sì. è un po' il remake delle polemiche della settimana scorsa su UE Inter, che sono polemiche che oggi fanno ridere e fanno piangere, ma onestamente io non è che faccio, non mi piace fare il populista. Una settimana fa o 10 giorni fa, tutto sommato, ragionare su un'ipotesi di partita a porte aperte era ancora possibile. Oggi si gioca a porte aperte in Germania, hanno 1000 casi. Magari, speriamo di no, poveri, perché siamo tutti nella stessa barca. Magari fra una settimana malediranno il fatto di aver giocato a porte aperte. Non lo so, cioè io non ho certezze. Mi rimetto al metodo Klopp, non ho certezze. Facciamo parlare gli esperti. Però ecco, anche in quel caso lì, su Juve Inter a porte aperte, a porte chiuse, si giocherà a porte chiuse, eccetera, eccetera, il giorno, il calendario, alla fine c'è stato un problema e una brutta figura, perché è stata lasciata una discrezionalità che ha aperto lo spazio alla polemica, perché è ovvio che se tu metti Juve-Inter a discutere su quando si gioca Juve-Inter, o metti Mediaset, Sky e Rai a discutere su chi... Se un accordo non lo trovi, ecco, perché chiaramente ci sono interessi un governo che stabilisce divergenti. Che per, con decreto, che per motivi di ordine pubblico, Juve-Inter si gioca a porte chiuse, faccio per dirti, e va trasmessa in diretta su TV8, e decidessero loro su TV8, su Canale 5, e tutti gli altri si prendono le responsabilità e gli altri si devono adeguare, perché qui c'è anche un tema ovviamente di non, cioè queste sono aziende che hanno il rischio di dover pagare delle penali, che hanno firmato un contratto per le pere, e sapere se diventano susine rischiano di dover pagare delle penali, no? Certamente. Quindi, è molto più discorso, complessa la situazione rispetto, aspetta Pier, perché siamo anche vicini al traffico, molto più difficile, complicata il ragionamento da fare rispetto alla semplice sintesi che i cattivoni non hanno voluto far vedere le partite in chiaro. Però probabilmente ci si poteva muovere con una settimana di tempo. Saluto Antonio Di Pollina di Repubblica. Ciao Antonio, grazie. Ciao, buon pomeriggio. Invece di ridursi all'ultimo momento. Allora, Pier, stai lì, noi abbiamo il traffico e poi continuiamo e raccontiamo anche invece che cosa è successo oggi nel mondo dei motori. Facciamo anche il conto del resto dello sport, perché c'è chi si è fermato del tutto, ad esempio la pallacanestro. Tutti convocati. Allora, intanto prime immagini dallo stadium di Torino. Sto seguendo gli interventi dal campo dei colleghi di Sky. Mi pare che siano state posizionate, non riesco a capire se bandierine o comunque insomma qualcosa di rosso sui seggiolini, almeno in un'ampia parte dello stadio, credo per limitare l'impatto cromatico del bianco dello stadio vuoto. Questa sera ore 20:45 Juventus-Inter. Il resto dello sport, dicevamo, il basket si è fermato nella notte, i giocatori non volevano scendere in campo, la federazione è intervenuta e ha sospeso la giornata, e poi vedremo che cosa succederà. Lo snowboard, la Coppa del Mondo a Livigno in programma fra 2 giorni, la tappa è stata annullata. Poi si sono fermati i campionati femminili di pallavolo A1 e A2. La Formula 1, Gran Premio del Bahrain, la seconda prova del mondiale, in programma il 22 di marzo, sarà a porte chiuse per decisione delle autorità. Questo è ciò che è stato deciso in questa giornata a proposito dello sport che si deve adeguare all'emergenza. Si è corso invece in Qatar per la Moto 2 e per la Moto 3, ricordiamo, non per la Moto GP, perché non sono stati fatti entrare i tecnici, i piloti arrivanti dall'Italia. Dunque nella Moto 2 ha trionfato il giapponese Nagashima davanti a 2 italiani, Baldassari e Bastianini, italiani che erano in Qatar già da diversi giorni, quindi sono rimasti regolarmente sul posto e hanno potuto correre questo Gran Premio. Mentre per quanto riguarda la Moto 3, la vittoria è andata allo spagnolo della KTM Arenas davanti a John Maffei, terzo Masia, che poi però è stato squalificato, retrocesso di una posizione. Sul podio è salito un altro giapponese, Ai Ogura. Saluto e ringrazio Roberto Ungaro, ciao Roby. Ciao, ben ritrovati a tutti. Ciao. Che cosa ha detto questa prima tappa dimezzata? Ricordiamo che rischia di saltare anche Austin ad aprile, perché ieri è stato dichiarato lo stato di calamità. Eh sì, ma la notizia ultima è che anche l'Argentina, forse, perché è stato riscontrato un primo caso anche là, e quindi le ultime notizie purtroppo dicono che il Gran Premio d'Argentina, che sarebbe stato poi la partenza ufficiale, anche quello in forse, quindi si sta mettendo male. Parlare di sport in questo momento è molto difficile, e le due gare che ci sono state comunque molto belle, molto combattute come sempre la Moto3, gara di gruppo, e quindi come sempre non sai fino all'ultima curva chi può vincere, ma anche la Moto2 è stata notevole. Peccato per il nostro Marini, che era stato protagonista nelle prove, una caduta l'ha relegato nelle retrovie. Però dopo la vittoria dietro la vittoria di Nakashima ci sono due italiani, Baldassarri e Bastianini. Questo fa un po' ben sperare, quindi noi siamo protagonisti della Moto2. Comunque hanno fatto capire che c'è battaglia, i valori in campo sono molto molto livellati e ci sarà spettacolo fino alla fine. Ma adesso, ripeto, tutta l'attenzione è riportata verso il campionato, questa MotoGP che non si sa quando riprenderà, e con lei ovviamente le classi minori. Come la stanno vivendo i piloti? Molto male, male, perché sai che i piloti sono studiati, vivono in funzione di, hanno un calendario di preparazione, tutto quanto. Poi il pilota, adesso scherzando, ma non sa fare altro, nel senso che se tu non lo fai correre non ha un'altra vita, è proiettato lì. Quindi sono divertenti anche i post di vari piloti che sono nei luoghi più vari e guardano queste gare dal telefonino, seguono le gare dei loro colleghi delle categorie minori. Però c'è veramente grosso, tanto spesamento, tanto, cioè, e poi soprattutto l'incognita, il punto di domanda, Giovanni, perché non avere una certezza, sai, se c'è una data vivi in funzione di quella data, anche per la tua preparazione, mantenere l'allenamento e tutto quanto, ma così è veramente un'incognita. Però ripeto, è talmente grave la situazione che i problemi sono altri. Sì, no, non c'è dubbio. Ultima domanda, la stagione è di 20 Gran Premi, fino a dove si può eventualmente arrivare per immaginare comunque una stagione anche perdendo qualche Gran Premio? Sai, c'è addirittura, per esempio, Pernat ha detto posponiamolo, corriamo fino a Natale, cioè partendo con sicurezza molto più in là si può arrivare, per esempio, ipotizzare fino a Natale. Un campionato a porte chiuse è più immaginabile di un calcio, perché il tifo del motorsport è molto diverso, lo sappiamo bene, ma è un grosso punto di domanda. Domani, è veramente, si vive di ora in ora, non di giorno in giorno, per capire, per sapere, tutto è conseguenza di quello che vivremo noi stessi. Ricordiamo che in passato si correva fino a qualche anno fa su meno di 20 prove, per questo dico potrebbe essere sacrificato qualche Gran Premio, pur con dolore, ma in fondo la MotoGP ha dei tempi per salvare la stagione. Ci sono, per esempio, i circuiti dell'Est che hanno detto possiamo ospitarne due per recuperare i nuovi circuiti della parte dell'Est del mondo, sai che è cambiato completamente il calendario, e quindi si sono dichiarati, però dipende tutto dallo sviluppo di questo incubo, ripeto. Grazie Roby. Ciao Giovanni, ben ritrovato a te. Grazie a Roberto Ungaro, siamo a 5 minuti da Udinese Fiorentina. Oh Pier, l'ultima cosa te la chiedo provando a gettare lo sguardo su Juventus-Inter, ne parleremo ampiamente dopo le 18, arriva anche Carlo Genta, e cioè abbiamo visto due vittorie esterne su tre, abbiamo parlato delle motivazioni che fanno la differenza, può esistere una differenza di motivazione tra Juventus e Inter? No, Juve-Inter è una partita nella quale sono tutte e due stramotivate, e quindi secondo me è l'eccezione rispetto al, ma ripeto, non è che il Milan non avesse motivazioni o il Verona non avesse motivazioni o il Parma non avesse motivazioni, ma se dobbiamo ricavare una piccola morale da quelle tre partite è che poi chi aveva più il coltello tra i denti ha vinto la gara. Qui ce l'hanno tutte e due il coltello tra i denti, perché è una partita pazzesca ed è un peccato che si debba giocare in questo tipo di clima, non soltanto di porte chiuse, ma è ovvio che è giusto che sia così, ma proprio di clima psicologico del paese, e quindi sono curioso di vederla, e ripeto, oggi mi sembra una bestemmia giocare a pallone, ho visto anche le dichiarazioni dei diretti protagonisti, dei diretti interessati, e li capisco, perché oggi ho questo abbiamo tutti, credo, questo tipo di mood. Poi se nei prossimi giorni pian piano dovessimo cominciare un percorso che ci possa far intravedere la luce di questo tunnel, allora, il calcio potrà tornare a essere uno strumento fondamentale. Di questi calciatori devono essere consapevoli, su questo non c'è dubbio. Massimo rispetto per tutti gli aspetti medici, tutte le sicurezze, i tamponi, le cose, ci mancherebbe altro, però i calciatori devono essere consapevoli che nella nostra vita portano normalità, portano allegria. In certi momenti, no, quando ci sono le situazioni di ordine pubblico, per esempio complicate, si dice bisogna giocare perché è un modo per distrarre da certe situazioni. In qualche modo questa situazione può essere comparabile. Pier, abbiamo il GR, ti ringrazio, ti saluto, domani dopo il GR delle 14. Ciao Pier, adesso invece abbiamo il GR delle 18, 800 24 00 24, ci troviamo nella seconda ora, parliamo a lungo di quello che accadrà questa sera. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati. Spero una partita bellissima e speriamo di divertirci. Sicuramente una partita difficile, ma è anche bella da giocare. Ho dato merito a questi ragazzi di aver alzato l'asticella, aver fatto sì che queste grandi partite abbiano un significato di classifica, ecco, perché alla fine Juventus-Inter sarà sempre una grande partita. L'importante è che dietro ci sia un significato ben preciso a livello di classifica. La gara è bella, è chiaro che Juventus-Inter è la partita più prestigiosa della Serie A per storia, per blasone delle squadre. Quest'anno anche per classifica, penso, perché poi alla fine, dopo due mercati importanti, l'Inter è diventata una delle favorite per il campionato come noi, quindi è importantissima anche per la classifica. Ci arriviamo nella giusta maniera, nonostante le difficoltà, no? Le difficoltà, perché comunque cambiare programmi, cambiare un po', non è stato semplice. Però, come ho detto ragazzi, bisogna essere bravi in queste situazioni di adeguarci, ci dobbiamo adeguare in maniera veloce, in fretta, e cercare, ecco, di continuare a fare quello che stiamo facendo, quindi lavorare duro e cercare di fare sempre del nostro meglio. Allora, si gioca intanto a Udine 0-0, undicesimo minuto, 0-0 tra Udinese e Fiorentina. Proviamo a parlare di quello che succede questa sera, Juventus-Inter, anche dal punto di vista calcistico, perché resta comunque una delle due sfide scudetto che restano sulla strada della chiusura della stagione. 800 24 00 24, numero verde. Mi ha raggiunto al telefono Carlo Genta. Ciao Carlo. Ciao Giovanni, ciao a tutti. E mi ha raggiunto Alberto Zaccheroni, che saluto e ringrazio per aver accettato il nostro invito. Mister, ciao, buonasera. Ciao, grazie a voi. Tanto ti chiedo, che opinione hai tu su calcio sì, calcio no in questo momento? Calcio sì, è smesso in chiaro. Non vedo, io seguo sempre il male minore, la soluzione perfetta non esiste. Prima viene la salute, quindi ci dobbiamo adeguare alle misure. Però permetto che io non conosco tutti i giocatori in campo in questo caso, quindi per dare una soluzione perfetta bisognerebbe conoscere tutte le varie componenti. Ci sono reparti che sono tenuti a decidere e dovranno decidere loro. Vista dal di fuori mi sembra la soluzione meno indolore. Trovare qualcosa di indolore oggi nel panorama nazionale in tutti i campi direi che non è assolutamente possibile. Quindi bisogna cercare di limitare i danni. Sì, bisogna mettersi in testa che la soluzione che non crea disagi non esiste, e non crea disagi, no. È capace di mettere d'accordo tutti. Cosa vuol dire giocare a porte vuote? Giocare a porte vuote, Carlo. Giocare a porte vuote, beh, è impossibile. Giocare a stadi vuoti è possibile, ha ragione il mister, cioè o chiudiamo tutto e quindi non si allenano neanche i giocatori, perché decidiamo che tutto è sospeso, tu sei lì a lavorare, io sarò domani, quello che si può fare si fa, soluzione meno indolore possibile, è questa. A porte vuote non saprei, a porte vuote non si gioca a pallone, ma credo che le porte stasera saranno piene, Giovanni. Speriamo a livello di divertimento, nel senso che speriamo di vedere comunque una bella partita, anche se insomma il clima sarà surreale, lo abbiamo vissuto anche a partire dalle 12:30 di oggi a Parma, poi a San Siro, poi a Marassi, lo stiamo vedendo a Udine. Alberto Zaccheroni, cosa significa giocare in quel clima lì? Lo chiedi a uno che ha giocato forse più partite nei dilettanti che nei professionisti. Io ero anche abituato a giocare con pochissimi spettatori. Però non è la stessa cosa. Manca la passione, manca l'entusiasmo, quello che ti trasmette anche il pubblico da di fuori. I giocatori, soprattutto questi giocatori qui, a questi livelli, giustamente non sono abituati. E quindi è un'anomalia che non so in quale percentuale andrà ad incidere, ma sicuramente andrà ad incidere. Però è un caso che ci siano state una partita, poi dopo secondo me ci si abitua tutti. Ci si abitua, non so, sarà. È un caso che ci siano state due vittorie in trasferta su tre partite, secondo voi? Ma secondo me in parte sì, io credo che sarà difficile, ma non ho mai fatto né giocatore né allenatore a quei livelli lì. Credo sarà difficile l'approccio alla partita, quindi la parte iniziale, eccetera. Poi quando si comincia a giocare sarà tutto un po' surreale, ma credo che in qualche modo se ne faranno una ragione agonistica. Casuale, non fa, certo è che insomma sappiamo bene come giocare in casa in trasferta una certa differenza la faccia. Sulla carta dovrebbero essere favorite, penso siate d'accordo con me, le squadre in trasferta, cioè sulla carta è chiaro, non hai il fattore ambientale del pubblico, del tifo a favore della squadra di casa, ma credo sia abbastanza una banalità, non so sì, se questo possa incidere. Però non so se ha inciso nei due risultati di oggi, Zaccheroni. Penso che in parte abbia inciso. È vero che le grandi squadre sono abituate a giocare per vincere anche fuori casa, e quindi il pubblico lo sentono sì e no, non più di tanto il tipo avversario. Per la squadra in media bassa classifica, abituata ad andare a San Siro con lo stadio pieno, è molto diverso. Secondo me adesso non sono abituati, e quindi probabilmente le squadre non sono abituate, probabilmente è andato a incidere, diciamo un 30% è andato a incidere. Sì, qualcosa sicuramente ha inciso. 800 24 00 24, abbiamo il traffico e ci fermiamo per un minuto. 0-0 sempre a Udine tra Udinese e Fiorentina nella quarta e penultima partita di questa domenica a porte chiuse. Il traffico, torniamo subito. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati. Scrive un amico: se si può dire che questo campionato, se si giocheranno altre giornate a porte chiuse, potrà essere falsato. No, secondo me non si può dire, questo è un campionato che è chiaramente condizionato da quello che sta succedendo. E se arriverà in fondo significherà che tutti avranno giocato 38 partite, ci sarà una classifica, non si potrà dire falsato, certamente condizionato, ma disagi, difficoltà ci sono per tutte 20 le squadre, e quindi mettersi a ragionare su quanto possa essere falsato per uno o per l'altro, io credo in questo momento sia un discorso che non sta nell'attualità, ma non sta nemmeno in proiezione futura di quello che racconteremo di questa stagione. Intanto, altra comunicazione ufficiale della Lega di Serie A: costituito un comitato tecnico scientifico di medici dottori che aiuteranno i club ad arrivare con una posizione scientificamente sostenibile, credo, all'incontro di martedì in Federcalcio, dove si decide che cosa sarà di questa stagione. Parliamo un po' di questo Juventus-Inter in campo. Che partita vi aspettate, Zaccheroni? Io me la voglio gustare, perché queste sono le partite che aspettiamo con grande passione, con grande attenzione, noi che siamo amanti del calcio. C'è la migliore qualità, assieme ai giocatori della Lazio, la migliore qualità del campionato italiano, quindi sarà sicuramente, comunque vada a finire, uno spettacolo. Non sono l'apice del miglior rendimento di entrambe le squadre. Entrambe hanno evidenziato qualche problema, però dall'Inter, l'Inter è venuto un pochino meno, diciamo. L'Inter ha fatto tante cose buone, gli manca ancora qualcosa. La Juve ci aveva abituati ad aver quasi già vinto il campionato, e trovarla in questa situazione e vedere che cambia spesso, non dobbiamo nasconderlo. Dai sistemi di gioco adottati, no? Se guardi 4-3, poi 4-4-2 a rombo per farli giocare tutti e tre, che sembrava, dopo 6-7 giornate, se non sbaglio, che sembrava che la Juventus avesse trovato la squadra, e adesso è diventato un 4-4-2 sfalsato, che in fase offensiva diventa un 4-3-3, una squadra che lavora molto sulla destra e poco sulla sinistra. Almeno guardando le ultime partite, quindi mi sembra che ci sia una sorta di cantiere sempre aperto, no? Anche se cambia spesso. Sono due squadre che sembrano arrivino dalla luna, cioè l'allenatore ti chiede, è passato un sacco di tempo da quando le abbiamo viste, la Juventus a Lione, fosse stata una settimana fa avremmo dato l'Inter per favorita, perché comunque la Juventus era quasi scioccata quella partita. È passato un sacco di tempo dall'ultima volta in cui abbiamo visto queste squadre giocare, quindi sarà interessantissimo vederle, anche perché praticamente non sappiamo più niente di loro. No, concordo. Io adesso mi rifacevo un pochino a quello che dove ci eravamo fermati. Ecco, in quel momento lì la Juventus evidenziava questi problemi. Secondo me Sarri vorrebbe giocare con il trio che tutti vorremmo vedere insieme, ma non ha ancora trovato, secondo me, la quadratura, la quadra, perché soprattutto perché manca chi è disposto a fare il lavoro sporco per quei tre. Guardiamo le prestazioni dei singoli giocatori, li abbiamo visti tutti in passato giocare meglio di come stanno giocando adesso, a cominciare da Pjanic, che ancora non si sa bene se questa sera lo vedremo dall'inizio o meno. Però li andiamo ad analizzare uno per uno, diciamo, escluso Cristiano Ronaldo, perché sta segnando una regolarità spaventosa. Mi sembra che tutti li abbiamo visti giocare decisamente meglio. Più decisivo Ronaldo, Lukaku fin qui? Direi per l'Inter è stato fondamentale Lukaku, perché sono mancati decisamente i gol dei centrocampisti nell'Inter. Se andiamo a guardare, l'Inter difende bassa, lascia spesso la palla agli avversari, e poi dopo su queste verticalizzazioni improvvise va a cercare Lukaku, da lontano gioca su Lukaku. Le ultime due o tre partite gli avversari hanno messo un avversario davanti a Lukaku, e l'Inter ha dovuto cambiare qualcosa, perché non riusciva a venire fuori. Però dopo è mancato molto Lautaro. Però questi due punti devo sottolineare che li ha assimilati molto bene, perché sono sempre messi in diagonale sulla traiettoria della palla e in due fanno reparto. Sì, c'è un grande lavoro dietro, e credo sia anche una delle ragioni per cui penso anche stasera non vedremo Eriksen titolare, perché per costruire quell'amalgama poi ci vuole un lavoro che evidentemente neanche la pausa forzata che ha avuto l'Inter in queste due settimane può aver accelerato. Oggi la previsione è che Eriksen parta ancora dalla panchina, può sembrare un paradosso essendo il giocatore più talentuoso della squadra, indiscutibilmente un grande giocatore, però così è almeno in questa fase della stagione. Ringrazio Alberto Zaccheroni, grazie Zac. No, se me lo consenti, sì, volevo dirti solo una cosa, che secondo me noi Eriksen al meglio lo vedremo nel momento in cui la squadra Conte riuscirà ad andare a pressare gli avversari un pochino più alti. È chiaro che difendendo 5 concedi campo, perché la fase difensiva la fanno sempre 5, quindi sei costretto a concedere campo. Nel momento in cui riuscirà a pressare un pochino più alto, non si dovrà abbassare così tanto, Eriksen diventerà un giocatore molto importante per l'Istituto. Grazie Alberto. Grazie a voi. Grazie, grazie, grazie Alberto Zaccheroni. 0-0 sempre Udinese-Fiorentina, 25esimo minuto del primo tempo. Ci ha già raggiunto Stefano Tirelli, con cui adesso parliamo dell'aspetto mentale, di come si lavora su una giornata, su giornate come queste. Prima però Davide della provincia di Massa. Davide. Buonasera, intervengo in trasmissione. Vai. Prima avevate trattato del tema relativo ai diritti della Lega di permettere a tutti i telespettatori di poter vedere in chiaro i diritti televisivi. Credo che sarebbe stato un gesto, oltre che solleticato anche dal ministro dello sport, sarebbe stato anche un gesto di civiltà, visto che ci sono delle zone ora che vengono definite rosse e sono costrette alla non mobilità. Sarebbe stato un gesto anche di civiltà, oltre che bello per lo sport, e non soltanto vedere sempre un interesse economico dietro a qualsiasi attività. Sì, però io credo, Davide, che la realtà sia che finiremo di ricostruire che cosa è successo, perché ad esempio la Lega dice noi eravamo pronti, in qualche modo Sky avrebbe fatto, si stava preparando, però con le regole attuali non si può fare, e quindi da una settimana andiamo avanti con questa cosa che servirebbe una copertura, un decreto, una riga, io adesso poi non so esattamente in che forme, ma insomma qualcosa che autorizzasse la Lega a farlo, evitando future cause per risarcimento danni. E poi a chi, a Sky, a Mediaset, a Rai, in tanti hanno avanzato la proposta, c'è chi ha pagato, chi no, la realtà è che nessuno ha pagato diritti per partite in chiaro. E quindi insomma il tema è molto complessivo, certamente sarebbe stato un bel gesto da parte di tutti, ma trovare colpevoli e innocenti in questa cosa, io credo che in questo momento 18 e 26 di domenica 8 marzo sia, oltre che inutile, sia praticamente impossibile. Ma avremo modo di ricostruire, Carlo. Sì, ma Giovanni, ne parliamo da una settimana a quest'ora, cioè è chiaro che sarebbe un gesto anche emotivamente, poi abbiamo Stefano Tirelli, magari ce lo dice anche lui, emotivamente un gran bel gesto, una gran bella cosa, neanche una cosa banale, l'abbiamo detto mille volte, sarebbe una cosa importante. Poi sui tecnicismi io sinceramente mi arrendo, se riescono a trovare una formula per sistemare la situazione sarebbe veramente un bellissimo gesto. Stefano Tirelli, ciao, buon pomeriggio. Ciao Giovanni, ciao Carlo. Chiaramente avrebbe un impatto su tutti, anche a livello psicologico, no? Poter condividere uno dei pochi momenti di aggregazione. Sì, l'unico modo per cercare di distogliere la mente da un pensiero fisso generalmente è quello di trovare qualcosa di piacevole che possa portarci a nostra volta a interessarci di qualcos'altro. Potrebbe essere sicuramente una modalità questa. Poi chiaramente, come voi dicevate bene in studio, è molto difficile organizzarlo nel giro di pochi giorni. E invece per quanto riguarda i calciatori, come si lavora dentro settimane così? Beh, ci sono due elementi importanti. Uno sono i calciatori, che hanno in sé geneticamente la voglia sempre comunque di giocare, quindi non mi aspetto un calo motivazionale da parte di alcuno, anche perché quando si entra in campo, anche in allenamento, spesso ci sono scontri tra i giocatori, proprio perché il giocare stimola quegli istinti primordiali che hanno fatto sì che questi ragazzi fossero poi diventati nell'arco della loro vita dei campioni. L'altro elemento è quello dell'allenatore, e qui secondo me è determinante. Cioè, chi riesce a motivare, a tenere alto il livello di arousal, di performance psico-fisico-mentale durante i giorni di inattività e soprattutto durante i giorni straordinari come questi, è più bravo a poter dare una mano allo stesso gruppo. Quindi l'allenatore motivatore in questo caso io penso che possa fare la differenza, sia quella un pochino la chiave anche per mantenere e costruire un concetto di armonia all'interno di un gruppo che sicuramente vuoi per questa problematica enorme che stiamo vivendo e per altre annesse e connesse, sicuramente può in qualche modo percepire queste difficoltà. Carlo? Guarda, sentendo parlare Stefano mi veniva in mente un discorso che aveva fatto un mio amico senese. Mi diceva che c'era un cavallo che quando c'era il Palio di Siena, cioè anche quando non, cioè prima del Palio, era lì nella sua stalla, quando sentiva suonare la campana del campanone di Siena, cominciava a tirare calci da tutte le parti. Credo che gli agonisti siano così, e credo anche che mettendoci il loro panico del pubblico, in quanto ragazzi che comunque stanno vivendo insieme a noi questa situazione difficile, credo che sia un bene anche per loro giocare a pallone, guarda, emotivamente. Sono d'accordissimo. Una sensazione. Sono d'accordissimo, perché in 20 anni finora di lavoro con i calciatori di massimo livello ne ho viste tante, non come questa, grazie al cielo, questa purtroppo va oltre a tutto, però ne ho affrontati di momenti in cui per varie circostanze i giocatori potevano essere condizionati negativamente. Dentro di loro c'è un'energia, un'anima che, ripeto, ha fatto sì che questi ragazzi emergessero rispetto a altre migliaia o centinaia di migliaia di loro coetanei. Quindi da questo punto di vista non c'è il problema. Chiaramente l'ambiente senza pubblico favorisce teoricamente la squadra che dovrebbe in teoria giocare fuori casa. Oggi secondo me i 2 risultati su 3 non sono stati casuali, c'è stata una condizionante di questo tipo. Però poi è chiaro, stasera la partita è giocata da 2 straordinarie squadre per quanto riguarda il campionato italiano, per cui vediamo un po' come andrà a finire. È possibile sviluppare la stessa aggressività in campo, la stessa intensità anche a porte chiuse, e soprattutto al di là delle porte chiuse, anche in un contesto in cui, e questo è assolutamente pacifico, i calciatori hanno famiglia, hanno storie, hanno comunque le preoccupazioni che ha chiunque, e quindi possono anche avere magari un calo di motivazioni. Sì, comunque io mi aspetto che stasera ci siano anche dei momenti di tensione tra i giocatori, come è giusto che sia, perché altrimenti vorrebbe dire che quest'anima così appunto portata alla massima performance nonostante tutto potesse venire meno. Oltretutto è anche tra virgolette un dovere loro, nel senso che è chiaro che è uno spettacolo che loro devono anche proporre ai tifosi, che hanno bisogno in questo momento di distrarre la mente e di caricarsi di emozioni, di passione, ma in questo caso una passione positiva, e distogliere appunto la mente per almeno 90 minuti e basta da quelli che sono pensieri fissi e costanti che attanagliano un po' tutte le nostre teste in questi giorni. Carlo? Ma io sono d'accordo ovviamente con quanto dice Stefano, credo anche che sarà curioso vedere quale sarà l'approccio dei giocatori, ma un'altra domanda che vorrei fare a Stefano è se invece avranno un pensiero sul contatto fisico, avranno un pensiero al problema mentre giocano, perché questo è successo storicamente, ad esempio quando ci fu Magic Johnson che giocò con l'HIV, certo. Ovviamente è un'altra storia, un altro tema, un altro problema, anche se per alcuni aspetti più delicato, però avranno un pensiero da quel punto di vista? Alcuni di loro secondo me sicuramente sì, nel senso che ci sono 22 giocatori, quindi 22 menti, 22 persone, ognuna delle quali ha una percezione diversa del pericolo o della realtà dei fatti. Quindi così come noi in un ambiente di lavoro reagiamo differentemente rispetto ad uno stesso teorico problema, in questo caso ci saranno alcuni giocatori che in qualche modo cercheranno meno il contatto. Questo non vuol dire viziare la partita, vuol dire che nonostante tutto il gioco del calcio è fatto da esseri umani, e quindi certo, essendo certo, comunque una gara regolare, regolamentare, perché appunto certo, la giocano tutti, e quindi in questo senso. Un'altra cosa mi preme dire, secondo me il momento principale che fa la differenza quando entri a porte chiuse in uno stadio è quando esci dallo spogliatoio per fare il riscaldamento. Quello è il momento che fa la differenza a livello mentale, perché il massimo dell'apice, dell'entusiasmo e dell'ansia positiva di un giocatore la si percepisce uscito dallo spogliatoio per il riscaldamento. Quando affronti il muro della folla, che in questo caso sarà in realtà un muro fatto di seggiolini vuoti. Grazie Stefano. Grazie a voi, grazie, grazie, buona serata. Ciao, grazie a tutti, Stefano Pirelli, ciao a te, grazie. 34esimo minuto a Udine, 0-0 tra Udinese e Fiorentina, partita che si gioca su ritmi discreti. Quella tra Udinese e Fiorentina è l'Udinese che ha avuto in un paio di circostanze le occasioni migliori per portarsi in vantaggio, ma parziale ancora fermo sullo 0-0. Ci fermiamo un minuto e torniamo. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Tutti convocati. Chiedo a un amico perché il calcio debba andare avanti e gli altri sport no, ad esempio il ciclismo che non ha tifosi stile stadio, perché fermare la Milano-Sanremo? Beh, l'abbiamo già detto in settimana, lo abbiamo detto venerdì, Carlo, il ciclismo paga paradossalmente la sua caratteristica di essere lo sport più popolare e democratico di tutti, è difficile immaginare di transennare 200 chilometri e passa. No Giovanni, è intuitivo capire i motivi, secondo me. Se avete mai visto una corsa, se siete mai stati su una montagna al passaggio del Giro d'Italia, è una domanda che non ha senso di esistere. Cioè, se impediamo, cioè se sconsigliamo ogni forma di aggregazione dal pub alla scuola eccetera eccetera, non vedo come sia possibile organizzare un arrivo in volata della Milano-Sanremo. Mi sembra intuitivo, no? Certamente. Poi in tanti ci chiedete che cosa succede nel caso di sospensione del campionato, se si assegna o no il titolo, chi va in Europa. La verità è che non c'è un precedente, quindi in questo momento certamente c'è chi in federazione sta studiando le norme per capire che cosa potrebbe capitare. Non c'è un precedente e quindi a questa domanda non c'è una risposta certa. La versione più accreditata è che non ci sarebbe l'assegnazione del titolo. Certamente la Federcalcio, la Lega dovrebbero provvedere a redigere una classifica che serve alla UEFA per far accedere delle squadre in Champions League, in Europa League, proseguire poi nella prossima stagione l'attività. Però ad esempio sarebbe complicato ragionare su ad esempio retrocessioni e promozioni dalla Serie B, dove c'è, giusto per citare l'esempio del Benevento, c'è una squadra che di fatto è già promossa in Serie A per la straordinaria stagione che sta facendo. Ma noi speriamo che si possa andare avanti in qualche modo. Questo è uno scenario che dobbiamo considerare, perché sarebbe irresponsabile non considerarlo, Carlo, ma noi si continua a sperare che si possa provare ad andare avanti. Io, a me sembra che qui stiamo passando molto oltre. Quindi vediamo cosa succede giorno per giorno nella vita quotidiana, vediamo cosa succede anche nel calcio un giorno alla volta. Questo è molto oltre, ci penseremo quando saremo arrivati fin lì, è una delle lezioni che stiamo imparando in fondo in questi giorni. L'unica cosa, qualunque sia la soluzione, la situazione, la decisione finale, ricordiamoci sempre di questi giorni che stiamo vivendo prima di innescare le polemiche o di dire delle stronzate del tipo a quel campionato là l'avete vinto perché non c'erano i tifosi. Qui cominciamo a portarci avanti invece noi con le raccomandazioni, perché quello sarebbe veramente fastidioso e sai che succederà. Sì, cerchiamo di avere tutto un senso per la misura. Mario, provincia di Latina, 800 24 00 24. Mario. Sì, pronto, buonasera e buona domenica. Eccoci, vai. Sì, volevo parlare per quanto riguarda la partita della Juventus. Anche se si disputeranno insomma le partite a porte chiuse e insomma senza diciamo l'aiuto dei tifosi, insomma non è che la squadra subisce qualcosa. E poi volevo approfittare per fare un saluto. Sì. Sì, volevo salutare affettuosamente, mandargli tanti auguri a tutte le ragazze del Basta Bacchi Rendezvous di Portico di Caserta. Va bene, le salutiamo anche noi. Raffaele Brindisi. Sì, buonasera. Mi chiedevo, visto che quanto sembra per quanto riguarda le partite da vedersi in chiaro è una questione di soldi, mi chiedo, sono dei club privati quelli di Serie A? E naturalmente tutti quei soldi che noi sborsiamo per l'ordine pubblico li cacciamo noi come le tasse. Come mai li cacciamo i soldi per le tasse per tanto tempo e poi per uno o due partite si tirano indietro a farli vedere alle persone? queste partite. Raffaele, ti potrei dire che anche i club, proprio perché sono le SPA, le tasse le pagano. Pagano oltre 1 miliardo di euro di tasse all'anno, fra tasse e contributi, fanno parte dello stesso sistema, contribuiscono comunque già all'ordine pubblico, perché da tanti anni dentro lo stadio ci sono gli steward, ad esempio, e le forze dell'ordine sono in numero minore, fortunatamente, perché ci sono stati periodi in cui si è ecceduto, e quindi parte di queste spese per l'ordine e la sicurezza le sostengono i club. Si può fare di più? Il dibattito è aperto, però trovo, non so Carlo cosa ne pensi tu, che è un po' populista, no? Dire siccome sono privati devono scegliere di regalare i diritti. No, ma sinceramente non capisco quale sia il problema, cioè se il problema è di chi dice io ho pagato per le partite, allora le devo vedere solo io che ho pagato, mi sembra veramente meschino. Se vogliamo fare altri ragionamenti, va bene. In questo momento mi sembra che per mille motivi c'è chi non può permettersi di vedere le partite a casa e magari si aggrega in locali pubblici, in questo momento non è possibile. Possiamo fare mille questioni. C'è chi dice ho comprato il biglietto, adesso non posso andare. Ognuno ha i suoi interessi personali, credo che l'interesse generale e anche l'apertura generale nei confronti di partite a porte, cioè di partite in chiaro, in una fascia limitata di tempo, state tranquilli voi che avete pagato i diritti e non volete farli vedere agli altri, penso che possa essere una buona idea dal punto di vista così del pubblico, dal punto di vista dell'interesse pubblico a un evento che viene chiuso per ragioni più grandi. Sì, e poi avrebbe un significato simbolico importante. Intanto Paolo della Fiorentina, Paolo colpito da Milenkovic con una girata di sinistro all'interno dell'area di rigore, dopo un batti e ribatti, Fiorentina vicinissima al gol del vantaggio, sul cronometro ci sono 42 minuti, il parziale ancora 0-0, ma dopo le due occasioni dell'Udinese che vi avevamo raccontato in precedenza è arrivato questo palo colpito da Milenkovic. Salvatore da Roma, Salvatore. Sì, ciao, buonasera a tutti. Io volevo intervenire sulla non sospensione del campionato di calcio, perché come stai dicendo è uno spettacolo e serve veramente 2 ore di spensieratezza, un momento veramente drammatico per tutti. Io personalmente, che ho dei parenti in Lombardia, esattamente a Bergamo, che sono tutti malati, da mio suocero che ha 92 anni, a mia cognata, a mia nipote di 2 anni, serve veramente un momento di spensieratezza, perché è quel momento che non fa pensare a nulla. Servirà poco, servirà a nulla, servirà, non si sa, però serve veramente un attimo di spezzare un attimo i pensieri su questa veramente drammatica situazione. E sento tanto anche sul fatto che non si può dare la partita, non si può dare la partita, e era colpa di Sky, era colpa del presidente della Lega, era colpa per chi la dà la Rai, la dà la Fininvest. Le volte non c'è mai volontà di fare le cose, veramente si passa da un impegno enorme a non volere fare le cose, mi dispiace. Evidentemente il punto di caduta non è stato trovato, Salvatore, abbiamo provato anche prima con Salvatore Di Pollina a raccontare il perché, a raccontare che cosa c'è dietro. L'unica cosa che ci permettiamo di continuare a sottolineare è questo balletto di accuse incrociate, è qualcosa al di là della scelta di non mandare le partite in chiaro, che certamente non ha dato dimostrazione di responsabilità e un bel segnale, ma del resto non l'unico di questa domenica e di queste domeniche vissute dal calcio e dallo sport nell'emergenza. Ci ha raggiunto Luca Marelli, c'è il traffico, tra un minuto chiacchieriamo anche con lui, continuando a seguire il finale di Udinese-Fiorentina nel primo tempo. Una puntata davvero eccitante, piena di sorprese, piena di colpi di scena, e non è tutto. C'è ancora un'ultima grande sorpresa. Tutti convocati. Tutti convocati. Perché ci sono tante storie da raccontare dentro una domenica come questa. C'è anche la storia degli arbitri. Saluto Luca Marelli. Ciao Luca. Ciao, ciao a tutti. Oggi il nostro non è Varanatomi, è una chiacchierata che stiamo facendo tutti insieme attraversando queste giornate e questa giornata di calcio che si gioca. Poi da martedì vedremo che cosa accadrà. È credo difficile anche per gli arbitri. Oggi uno degli aspetti curiosi delle partite che abbiamo visto fin qui è stato anche ascoltare come gli arbitri realmente si rapportano ai protagonisti in campo. Abbiamo sentito Pairetto nella gara di pranzo rivolgersi in maniera dura ma anche rispettosa nei confronti delle panchine. Vedremo che cosa succede questa sera a livello audio in Juventus-Inter. Interessante anche se si sentirà come Conte parla ai suoi. Luca? Sì, no, è stato molto interessante. Per me non è niente di nuovo, però io l'ho consigliato, non me ne vorranno i telecronisti di Sky, DAZN, però l'ho consigliato proprio perché è una opportunità in un momento così difficile di conoscere un altro aspetto del calcio che non è molto conosciuto, perché i rumori degli stadi, anche con 1500-2000 persone, coprono completamente gli effetti del terreno di gioco, cioè i suoni del calcio. È stato molto interessante, sì, oggi abbiamo sentito anche, durante Sampdoria-Verona, abbiamo sentito il colloquio di Valeri, non di Banti ovviamente perché era in cuffia, ma abbiamo sentito il colloquio di Valeri sul rigore che è stato assegnato col VAR alla Sampdoria realizzato a Quagliarella. Abbiamo sentito Valeri dire non ho visto niente e abbiamo già capito perché, per quale motivo Banti l'ha richiamato al VAR, perché non aveva, era un episodio che si era completamente perso, e poi ha chiesto di essere aiutato con una frase, fammi vedere un'immagine frontale, che è quello che poi lo ha convinto a concedere calcio rigore. Sono particolari interessanti che potrebbero anche esserci utili nel momento in cui riprenderà il campionato e speriamo col pubblico. Sì, per capire come guarda, funziona. Sì, Carlo. Io non vedevo l'ora di sentire Luca, perché ho un milione di curiosità da togliermi. No, Luca, tu sei passato da, ovviamente hai fatto la carriera da arbitro dai primi gradini alla Serie A, ora ti ricordi i primi gradini e ti ricordi la Serie A. Abbiamo parlato prima dell'emotività dei giocatori, ma qual è l'emotività dell'arbitro? Guarda, io ho avuto un'esperienza nel 2007, dopo l'omicidio Raciti, di arbitrare a San Paolo, Napoli, Piacenza a porte chiuse, e ti assicuro che è stato per i primi 10 minuti quasi scioccante, perché fin quando si arbitra all'oratorio, sì, ci sono le voci, le senti, però sono campi piccoli, senza tribune, e perciò le voci si perdono. In uno stadio come San Paolo, in qualsiasi stadio che abbia attorno delle mura, che sono poi gli spalti, si crea una sorta di effetto eco. E bisogna stare molto molto attenti, perché cambia completamente il modo di rapportarsi con i giocatori. Ogni tanto qualche urlata, qualche strillo parte pure agli arbitri, magari anche qualche parolaccia, perché è normale nella tensione che possa partire una parolaccia. Bisogna stare molto attenti. Quello che ho notato oggi, e penso che l'avrai notato anche tu, è che i giocatori sono molto contenuti oggi. Tanto è vero che Milan-Genoa, per esempio, è finita senza neanche un'ammonizione e con, credo, una quindicina di falli fischiati, nonostante la partita avesse un interesse. Lo stesso per Sampdoria-Verona, più combattuta, ma in ogni caso proteste limitatissime, proprio perché anche i giocatori hanno capito perfettamente subito che oggi è una giornata particolare, sperando che si giochi anche nelle prossime, anche se onestamente qualche dubbio. Sì, intanto vi leggo che cosa ha appena dichiarato il ministro dello sport Vincenzo Spadafora a 90esimo minuto. Ognuno si faccia la sua opinione. Ministro Spadafora ha detto: oggi si è giocato per un gesto irresponsabile della Lega di Serie A e del suo presidente D'Alpino, che così incassa, diciamo, per due volte in una settimana. È vero che nel decreto, dice Spadafora, c'è ancora la disposizione delle porte chiuse, ma stiamo consigliando agli italiani di stare a casa. Il mondo del calcio si sente immune da regole e sacrifici. Ragazzi, il decreto l'ha firmato lui 10 ore prima. E io faccio fatica, onestamente. Devo dire la verità, faccio fatica. Sembra, con tutto il rispetto per il ministro e per le istituzioni, posso dire che a me sembra una cazzata. Ma ve lo dico per me, Carlo Gente, da no, ma cittadino. È incongruente con quello che ha fatto poi concretamente, ragazzi, allora, lo stesso ministro. Io non riesco a capire. Quello che stiamo vivendo, l'importante è che non si trasformi tutto in una questione politica, cosa che è diventata demagogica. Esatto. Se è una questione di salute pubblica e decidono che i giocatori rischiano e non possono giocare a pallone, a me va benissimo e va benissimo anche a loro. Se diventa una questione politica per questioni di di consenso o di altre cose, allora non va più bene. L'unico discrimine è questo, poi facciano quello che è giusto fare, che ritengono opportuno. E vale per i calciatori, vale per 16 milioni di persone, 60 milioni per quanto riguarda ciò che invece interessa tutto il territorio nazionale. Luca, non so l'opinione tua. No, io sono totalmente d'accordo, cioè viviamo, però dobbiamo anche pensare a un aspetto, che io ho 48 anni e non ho mai vissuto nulla che possa essere considerato anche simile, cioè siamo in una situazione che nessuno di noi ha mai vissuto, è un'emergenza vera, abbiamo visto anche i numeri di oggi, sono terrificanti oggettivamente, quelli che sono stati appena resi noti, perché soltanto in Lombardia ci sono stati quasi 100 morti oggi, e sono numeri molto alti, al di là del fatto che siano anziani o meno non mi interessa, cioè sono sempre 100 persone che non ci sono più, che hanno avuto la loro situazione aggravata probabilmente da questo virus, che è un nemico invisibile che tutti dobbiamo combattere. Però il primo metodo per combattere questo nemico invisibile è essere razionali e soprattutto rispettosi, non soltanto di noi stessi, ma soprattutto di persone più deboli che hanno qualche problema. Io nel mio piccolo, lo dico tranquillamente, questa settimana ho deciso di non uscire di casa, farò solo telelavoro, i miei appuntamenti o con Skype o altrimenti i clienti aspetteranno. Tutto qua. E questo poi ognuno si adegua, però ripeto, ognuno si adegua alle prescrizioni, c'è anche chi per prescrizione va a lavorare anche domani, va a lavorare oggi, è qui a lavorare oggi, ma noi facciamo i cronisti e raccontiamo. Ancora Spadafora, l'invito che facciamo a tutte le realtà è quello di cercare di evitare ciò che si può evitare, l'unica cosa è diminuire le possibilità di contatto, facciamo parte tutti dello stesso paese, dal calcio mi auguravo un senso di responsabilità maggiore, cosa faremo? Aspettiamo martedì. Confido molto nell'equilibrio di Gravina e quello del Consiglio federale e in quello che il Consiglio federale della Federcalcio farà. E poi ancora metterò mano alla legge Melandri, l'accordo sulle dirette in chiaro non è stato trovato in nome del dio denaro. Il calcio non è un esempio, è un mondo che si è chiuso a riccio e che non ha pensato al paese. Si tratta di decisioni a tutela della salute degli italiani. Questo è il ministro Spadafora qualche istante fa alla RAI. Giuseppe da Bologna, Giuseppe. Buongiorno. Eccoci. Innanzitutto un saluto a tutte le donne che ascoltano. Sì. Io telefonavo relativamente al discorso del in chiaro su Sky. Cioè, io sono un abbonato Sky, pago quello che devo pagare come Sky, e sarei anche d'accordo a firmare una liberatoria in modo che Sky possa far vedere le partite in chiaro tutti, perché non capisco il motivo del dio denaro. Gli abbonati hanno pagato, per cui i soldi ci sono, e perché non farli vedere? Sì, ma il problema, Giuseppe, non è tuo, la liberatoria tua, chiaramente è una questione che viaggia su un livello più alto, abbiamo provato a spiegarla, di complessiva, di sistema, di diritti TV, di veti incrociati, anche di normative, di leggi, perché dice metterò mano alla legge Melandri, la legge Melandri oggi vieta in Italia, in assenza di bando, la trasmissione di partite in chiaro, quindi serve una deroga e evidentemente non si sono messi d'accordo tutti i protagonisti di questa vicenda. Luca, invece, tornando ai nostri arbitri, cosa succede agli arbitri italiani prossima settimana in Europa, sempre ammesso che si giochi? Ma guarda, mi dai l'occasione anche di ammettere un errore che ho commesso, perché ho detto effettivamente che gli arbitri italiani non sono stati designati, è vero, non posso negarlo questo, però devo anche dire che l'informazione era parziale, l'ho modificata chiaramente, mi sono scusato per l'incompletezza dell'informazione, la spiegazione che è arrivata ha una logica, cioè quella che la parte della tecnica arbitrale della UEFA ha deciso di evitare problemi più che altro logistici, nel senso che non sapendo come sarebbe voluta la situazione in Italia, si sono trovati nella situazione di poter ipotizzare che gli arbitri italiani, se fosse peggiorata la situazione come è peggiorata, non avrebbero magari potuto arrivare, non avrebbero potuto uscire dalle zone rosse, non avrebbero potuto arrivare nei campi, sui terreni di gioco, nelle città, e perciò ci sarebbero trovati con le partite scoperte a livello arbitrale. Così hanno deciso di tenerli per il momento in stand-by, è una decisione che tutto sommato ha una logica e bisogna cominciare, anche io devo cominciare a pensare che bisogna fare un approfondimento in più onde evitare di cadere in questi errori, perché si diffonde anche sì, una anche se poi resta sempre il grande nodo per cui oggi appena fuori dall'Italia si è giocato a stadi pieni quasi ovunque. In Francia ieri è stata fermata a Strasburgo Paris Saint Germain e in Italia invece si sta discutendo di fermare il campionato. Oggi la stampa spagnola scrive che l'Atalanta potrà viaggiare a Valencia per la Champions League perché questo prevede il decreto e quindi sono calciatori professionisti, possono uscire dalla Lombardia e però poi decideranno le autorità locali se e come farli entrare. Quindi il nodo è molto più complicato da raccontare e anche da sciogliere. Grazie Luca. A voi, buon lavoro. Grazie, grazie a Luca Marelli. Noi ci fermiamo qui, Carlo. Racconteremo questa sera con Dario Ricci e nei giornali radio la partita tra Juventus e Inter. Dopo il giornale radio delle 19, Radio 24 dedicherà un approfondimento, uno speciale a tutto ciò che stiamo in realtà raccontando da due settimane all'emergenza coronavirus. E quindi restate su queste frequenze per avere tutte le informazioni. Domani dopo il GR delle 14 invece torni tu. Domani ci sentiamo naturalmente. Abbiamo molto di cui discutere, Giovanni. E racconteremo come sarà andata questa domenica. Io ringrazio Edoardo Lavezzari in redazione, in regia Gianmarco Ferronato e Andrea Roccabella. L'appuntamento con me è domenica prossima in diretta alle 17.